di area folk. In questa circostanza invece la fisarmonica viene usata in un contesto molto diverso, con sezioni di vera e propria avanguardia artistica, e quindi cominciamo a gustarci queste due tracce di La Dom e La Zanzara Filippa di Sisto Palombella. We'll be right back. ancora Sisto Palombella. Lo streaming per qualcuno va, per altri meno. A me funziona, Maya per esempio a tratti, gli altri se vogliono me lo dicono. Noi continuiamo ad ascoltarci Le Civette, queste prove tecniche di trasmissione, ore 21:40. We'll be right back. Magistrale interpretazione per quanto riguarda Sisto Palombella, la sua magica fisarmonica usata in una maniera così inusuale, strutture sperimentali e anche andatura vagamente jazzata, il tutto contenuto in questo Le Civette, suo ultimo lavoro del 2022. Saluto anche Patrizia Carpi, new entry. Vado a risalutare Anna e tutti quelli che ringrazio, mi hanno confermato anche il funzionamento bene o male dello streaming. Tempo fa ho conosciuto un personaggio qui a Roma dal nome Cesare Marilungo. Parlando mi ha messo al corrente dell'esistenza di un suo vecchio progetto di circa 20 anni fa che portava il nome di Noosfera. Quindi, sollecitato dall'andarlo a sentire, credo che ne valga effettivamente la pena, ormai è un progetto non più esistente, rientrato veramente nel background più profondo. E quindi di Noosfera ci andremo ad ascoltare i cosiddetti early works, i lavori diciamo iniziali di carriera, appunto credo proprio all'inizio degli anni 90. Ci andiamo ad ascoltare TL1. Bene, questa sera abbiamo conosciuto per la prima volta questo progetto romano dal nome Nosfera di Cesare Marilungo, che vado anche a salutare. Tratteggi ambient, increspature ambient, ma anche frequenze strane, aliene. Un album elusivo, misterioso, molto interessante, diciamo più che altro un assemblaggio di materiale d'inizio carriera di Nosfera, collocabile, se non ricordo male, all'inizio degli anni 90. Poi il tutto si prese una via diversa qualche anno dopo, per andare ad approdare a lidi più nettamente neofolk. Lasciamo dunque Nosfera e andiamo invece a Napoli, mentre vado a salutare anche Valerio Michetti della Grazia Obliqua e Paolo qui a Roma. Andiamo in Giappone, ma tutto ciò lo facciamo sfruttando l'ennesima compilation di Raffaele Pezzella in quel di Napoli, attraverso la Unexplained Sound Group. Titolo classico di queste antologie, Anthology of Experimental Music from Japan. Quindi gli intenti sono ben chiari. Cominciamo con l'ascoltarci Ryo Murakami, questa traccia si chiama Sync.